One, two, three, four. C'è una radio in giro così e non mi dite niente? No. Siete un branco di puzzoni. Dovete dirlo in giro, dovete dirlo anche ai vostri amici. C'è Radio Samarcanda che fa una musica unica, lo dice anche l'intelligenza artificiale. Tu chiedi cos'è Radio Samarcanda, quella ti risponde. Mi piace questo pazzo. Dunque, ho iniziato. Non ho detto una parolaccia, ho detto pazzo. No, perché adesso è stato. Non si può dire stronzone ora? Non si può dire. Vabbè, d'accordo. Ma è una cosa simpatica. No? Qualcuno si è offeso? No. Scusate, ben trovati, eh? Io sono Edith, ciao. Sto suonando il pianoforte. Dunque, l'altra volta ho cominciato con un brano che mi era molto simpatico, perché io credevo che fosse un brano di Nat King Cole. In realtà sì, è un brano di Nat King Cole, ma è stato completamente trasformato. L'ho usato come sigla, o più o meno come ho fatto con questo. Adesso ve lo faccio ascoltare. Sì. Questa è Radio Samarcanda, eh? Sì, Radio Samarcanda. Lo so, è un nome così. Carino, eh? Sì, ci piace. I see a little bird that is sitting in the treetop. A bird, a little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. A bird, a little bird that is sitting in the treetop. Fly, my Brazilian lovebird. Fly to the one I love. Fly, my Brazilian lovebird. Fly to the one I love. Quero estar. Quero voar pra sempre com você. Só quero estar com meu amor. Quero voar pra sempre com você. Não me deixa assim tão sozinho, meu passarinho, meu amor, meu. Bebe Gilberto, Brazilian Love Song, da questo stranissimo disco tutto un po' mixato. Ma vorrei sentire invece un genio assoluto di questo tipo di sound. Beh, non proprio di questo tipo di sound, ma insomma, ci ha provato. Ci siete? Ok. Herbie Hancock, Headhunters, Sly. Thank you.

Herbie Hancock, sul canale destro e sul canale sinistro, a tutte e due le mani sulle tastiere. Grande Herbie. Not all limbs have erections. Sometimes even you have to decide which is up and which is down, which travels and which is stationary. Which travels to stations and which travels aimlessly, and whether desire can perhaps best be described as a train running. Thank you. Come sapete ormai, rarissimamente lo faccio, quello di lasciar scorrere due o tre brani una presso l'altro senza annunciarli. Qualche volta si faceva quando si andava in onda la notte, no? E c'era un momento di stordimento che bisognava, insomma, in qualche modo superare. Qui non è così, qui c'è stato il tentativo di infilare cose completamente diverse una presso l'altra attraverso un leggero silenzio tra una proposta e l'altra. I brani che abbiamo ascoltato erano praticamente un Herbie Hancock da un album straordinario, quello con tutto quel disegno giallo sopra, e il brano si chiamava Slime. Poi è entrata un'artista abbastanza particolare. Lei si chiama Jenny Hwal. Qualche tempo fa ha composto un album che si chiama Viscera e adesso sta uscendo con qualcosa di nuovo. Devo dire che è un artista che ho scoperto più o meno per caso. Ho preso i suoi file musicali, li ho messi in macchina e ogni tanto quando compare non è proprio un sound da automobile, ma insomma sembra molto interessante. E adesso poi c'è stato un passaggio verso una musica che viene dall'altrove, un altrove che c'è vicino in qualche modo, o quantomeno che lo evoca attraverso questi strumenti. Lui è un artista che Manfred Reicher ha inciso varie volte, suona la cora, suona quel chitarrone, diciamo, per intenderci. Si chiama Anwar Brahem e abbiamo ascoltato da questo suo album bellissimo Astrakhan Café, che è in sottofondo in questo momento. E l'altro brano che abbiamo ascoltato prima si chiamava Blue Jewel. Io sono Edith, questa è Radio Samarcanda. Radiosamarcanda.it o Samarcanda Digital Network sul DAB. O ancora per poco Radio Centro Idea su Alexa e Replyo. Insomma, tutte quelle altre app che riproducono le radio che stanno online. A noi piacerebbe veramente fare il giro del mondo adesso. Diciamo che ci sono delle connessioni sul nostro sito che stanno in Brasile, a New York, in Dalmazia, in Spagna, in Brasile. È ovvio che qualcuno è nostro amico che sta altrove, però qualcun altro potrebbe veramente imbattersi casualmente su questa nuova radio che fa una musica speciale. Non solo fa una musica speciale, ma anche il tipo di conduzione è completamente diversa da quella che c'è in giro. E praticamente ricalca o riporta un po' alla radio che coloro che hanno più di 60 anni e qualcosa in più si ricordano benissimo, perché era un certo modo di fare la RAI, era un certo modo di fare la radio libera, quando nacquero con i vari specialisti, gli appassionati di vari generi musicali, dalla dance al rock, al jazz, alla musica italiana, e poi chiaramente c'è Rai Stereonotte, che è il programma al quale io in qualche modo mi ispiro più di tutti. Ogni tanto fa piacere ritrovare, risentire suoni che ci riportano a una realtà più occidentale. Ciò non vuol dire che queste... addirittura ci sono delle canzoni di Lucio Battisti che non si conoscono più. E proprio qualcuno, ho scoperto, non le conosce proprio. E allora questo è Timmy Thomas da Londra, con una canzone che ormai dovreste conoscere in molti, che si chiama Why Can't We Live Together? Però non c'è il punto di domanda. Ma... Why can't we live together? No more wars, no more wars, no more wars. Just a little peace in this world. No more wars, no more wars. All we want is some peace in this world. Everybody wants to live together. Why can't we live together? Timmy Thomas, da un album dove suona, come sentite, il suo organo con la batteria elettronica di una volta che si usava. C'era una batteria con i tastierini sul lato della doppia tastiera. Sulla copertina di questo disco c'è scritto A Golden Classics Edition. Ma che vuol dire? Cioè, vabbè, io me lo chiedo così. Allora, c'è un brano che, diciamo, ho ascoltato spesso in questo periodo, perché è tratto da un album bellissimo, un album di Eric Clapton che ha prodotto da solo, perché è dedicato ai bambini di Gaza e la sua casa discografica, che i bambini di Gaza, non dico che li uccide, ma insomma è d'accordo con quelli che lo fanno, ha detto no, questo disco te lo produci da solo, e infatti non si trova più in giro, ma si può ordinare. Eric Clapton, An Intimate Concert. Got to get better in a little while. Questa è Radio Samarcanda, io sono Edith. We'll be right back. Attenzione all'assolo di batteria. Il gruppo suona alla grande, è un gruppo che si è riunito per l'occasione per fare questa incisione dal vivo e suonano con una dinamica, con un cuore pazzesco. I pezzi sono pezzi che abbiamo ascoltato una marea di volte, suonati da Eric Clapton, dal suo gruppo, dai gruppi che si sono susseguiti intorno a lui, ma qui c'è, non lo so, un sentimento che va oltre. I brani cominciano a prendere una chiave, una luce stupenda. Eric Clapton dal vivo, bellissimo, bellissimo. Ah, e che è successo? Non ci sente, non si sente più nulla. Ma dove sto sentendo io? Ma? Cioè, se io spengo il monitor. Ah, ho capito. Va bene. D'accordo. Non lo farò più, Waiting for the train. For a train. Flash and the pan. Intanto un po' di leggerezza ci vuole. Scende Pan da Radio Samarcanda. Io me lo ricordo questo brano presentato da Antonio Perobertis a Rai Stereo 1 quando io ero ancora un ascoltatore e poi dopo sono diventato un conduttore, ma poco dopo, roba di pochi mesi. Che bello, che storia, che gioia. E come vedete questa gioia era vera, perché è ancora qui, ancora viva. Mi piace ancora mettere musica alla radio per chi ascolta, ma soprattutto per me in cuffia, fare anche delle scoperte nuove. Per esempio adesso io sono andato verso una strada completamente diversa e non so proprio che cosa mi aspetterà. Vediamo che cosa succede quando tu metti Flash and the Pan e a un certo punto gli dici: va un po' per i fatti tuoi e fammi scoprire delle cose nuove. E così le scopriamo insieme. It's immaterial. And put your foot down. You know I like this suburb we're going through. I've been around here many times. Driving away from home. When I was young we were gonna move out this way. For the clean air, healthy, you know. Away from the factories and the smoke. I like that shop too. You can get anything there. So just get in. We'll go for a ride. Yes, we'll go driving away from home, 30 miles or more. And we'll go moving away from home without a care. I'll tell you what, why don't we cross the city limit and head on down the Me lo vedi? A lasciare fare l'algoritmo? È probabile che tu ti imbatta in una cosa che non ti piaccia poi così tanto. Voi direte, ma che c'è in questo brano che non ti piace? Ma che ne so? Mica so dirvelo. Non mi attrae. È ovvio, sicuramente non capisco le parole, ma insomma... Dice, vabbè, faccelo ascoltare a noi però, no? Stiamo in radio, stiamo scantando il tuo programma. Allora, no. Anche despota sei, ma me... su. Sì, è vero, non è brutto, però che ne so, magari ascoltare una cosa diversa tipo questa. Almeno il personaggio quando suonava a Woodstock ci aveva piaciuto, si dice? No, ho detto sbagliato. Richie Evans Going Back to My Roots. Neanche questa, ma oggi proprio una... Vabbè, dai, metti un brano che ti va bene. Neanche questa ti piace. Adesso sì. La voce inconfondibile di Richie Evans, da una radio straordinaria e inconfondibile ormai, che si chiama Radio Samarcanda Digital Network. La trovate su radiosamarcanda.it, ma questo può succedere in tutto il mondo, quindi Radio Samarcanda .it. Ma Tochka, che lingua è? Oh, una ragazza che ci piace molto, ha anche un bel caratterino. Lei si chiama Mrs. Lauryn Hill. Yeah. Grazie, ha detto yeah. Yeah, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. See the road to hell. Mention how they helped you out. You're such a hopeless victim. Please don't do me any favors, Mr. Intentional. Oh, their talk is seasoned to perfection. The road commanding your affection. They need to be needed, deceived by motivation. An opportunity to further situation. Why they're so important is without explanation. Please don't patronize me, Mr. Intentional. Disguising you. material. Hey, if you need much more than that, I'm not available. Please don't entertain me, Mr. Intentional. Oh, I don't need your sympathy, Mr. Intentional. Stay away from me, Mr. Intentional. So one-dimensional, Mr. Promotional. Mrs. Lauryn Hill. Mr. Emotional. Vedo sull'altro piatto che sta già girando una cosetta piuttosto interessante, un progetto che mi è stato consigliato da un amico ed è stato un ottimo consiglio, perché quello che c'è dentro questo disco è straordinariamente speciale. È un progetto realizzato dal batterista dei Nirvana. This is the part in the show where the bracelet comes off. You try to be cute. Chris Goss, chiedo scusa. E salutiamo Lauryn Hill. Silver platter, served warm, she's a real head case. I'll Decisamente rientriamo nei ranghi, quelli che mi scaldano il cuore. Finora abbiamo sentito della musica che non ho scelto direttamente, mi sono lasciato un po' scegliere dalla musica, qualcosa di buono c'era, ma questa mi comincia a scaldare. Allora, stavo riascoltando un concerto che ho registrato io stesso a Umbria Jazz nel 1988, quando il gruppo di Joe Zawinul, che non erano più i Weather Report ma erano i Syndicate, si presentarono quasi a mezzanotte in teatro e il concerto finì intorno alle 2. La registrazione è abbastanza buona, devo dire. Avevo una bella piastra portatile e la sto ripubblicando in un archivio musicale accessibile a tutti, in modo che qualche appassionato possa andare a riascoltare e a rivivere un momento che magari aveva vissuto e non avendo un archivio sonoro non si ricorda più come era il concerto. Invece in questo caso il concerto può essere riascoltato tranquillamente, e poi sono andato anche a trovare alcune indicazioni su quali fossero i musicisti. Insomma, mi diverto ogni tanto a fare queste cose. Questi sono i Weather Report, invece, come qualcuno avrà già intuito. Il pezzo si chiama American Tango. Non c'è Jacobo Astorius, c'è Wayne Shorter, però. Già mi riportano appunto in un tempo più appartenente a me, e infatti fa subito capolino Pat Metheny da uno dei suoi primi dischi. Che cosa sto dicendo? Questi sono ancora i Weather Report, tra l'altro con quel giro di basso pazzesco. No, io volevo sentire questo brano di Pat Metheny da Brightside's Life, adesso basta, computer, basta fare i fatti vostri. Adesso la musica non la scegli più tu, la scelgo io. Ci ho provato, ogni tanto provo a dare una chance all'intelligenza artificiale senza il supporto dell'essere umano. Ogni tanto mi stupisce, stavolta no. Solo per dirvi che qui Jacobo Astorius c'è. Pat Metheny insieme a Jaco Pastorius in uno dei primi album del nostro amato chitarrista. Ed ecco un'altra signora che amiamo moltissimo. Lei è Joni Mitchell. Turbulent Indigo è l'album. Il brano è Sunny Sunday. She pulls a shade, it's just another sunny Sunday. She dodges the light like Blanche Dubois. Bright colors fade away on such a sunny Sunday. She waits for the night to fall. Then she points a pistol through the door, and she aims at the street light while the freeway hisses. Dogs bark as the gun falls to the floor. The street light's still burning. She always misses. But the day she hits, that's the day she'll leave. That one little victory, that's all she needs. She pulls the shade, it's just another sunny Monday. She waits for the night to fall. Naturalmente ho riconosciuto subito Wayne Shorter al sax soprano, poi c'è Larry Klein al basso che ha anche prodotto l'album, un bellissimo album questo qui, e Jim Keltner alla batteria. Li riconoscete questi? Lei è la voce pazzesca, Tracy Thorn, e loro sono appunto gli Everything But The Girl. Yeah. space. You found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain. Bud the Girl. Questa è Radio Samarcanda, io sono Edith e questa che arriva è Etta James. Have the faith I have in you. Love will see us through if only you trust in me. Why don't you trust me? Come to me when things go wrong. Cling to me, Daddy. Oh yeah, and I'll be strong. We can get along, we can get along. Trust in me. While there's a moon on high. Whoa, there are birds, birds to fly. While there is you, you and I. The future, why don't you smile? Trust in me, and I'll be worthy of you. Oh, yeah, yeah. Why don't you trust in me? And oh, si ballerà questo brano. Yeah, yeah. Why don't you come to me? Vicini alla dama. Dovresti, no? Cling to me and whoa, and I'll be strong. Mm. Una festa con i lenti non mi dispiacerebbe affatto. Per esempio ce n'è un'altra di Marvin Gaye che mi piaceva moltissimo, che ho scoperto quando un certo Carboni faceva Rai Strionotte. Poi ne avevano fatto una versione molto bella anche Massive Attack insieme a Madonna, credo, eh? Sì? I want you, Marvin Gaye. Volete sentire anche la versione di Madonna? È bellissima, eh? Va bene, adesso la cerco. Thank you. Marvin Gaye con I Want You. Io volevo farvi sentire la versione di Madonna, ma perché sono così lontano? Mi sentite? Sì, mi sentite? Io sono qui, sono qua giù. Ah no, sono io che abbasso il volume, ma sono cretino proprio, mamma mia. Avevo perso completamente la distanza. Questo è lo stesso pezzo costruito dai Massive Attack insieme a Madonna e prende una bella forma. Thank you. Chiaramente il brano ha preso completamente un'altra piega, un'altra atmosfera, è diventato drammatico, direi bellissimo a un certo punto, no? Non vi sembra? Va bene, adesso voltiamo pagina. Tutti sarà comparso in questo periodo l'annuncio che Dick Van Dyke, il nostro amico dei camini di Mary Poppins, ha compiuto un'età, un secolo, e ancora canticchia, e ancora balla, devo dire, è fenomenale l'idea di questo attore. Allora, devo dirvi che questo è uno dei film a cui sono più legato, ma per tanti motivi, uno dei tanti che faceva Dick Van Dyke nella versione italiana, lo dico io, Oreste Lionello. sono legato a questo al disco, tra l'altro, della versione italiana di Mary Poppins, perché questa è stata la mia scuola. Ho imparato da questo album a sentire le voci che poi avrei incontrato quando ho iniziato il mio lavoro nel mondo del doppiaggio. E soldati in gonnella siamo, del voto alle donne gli alfieri siamo, ci piace l'uomo presa tu per tu, ma il governo... Lei è Rosetta Cavaletta. Calavetta, chiedo scusa. Catene noi spezzeremo e tutte... E fa il ruolo della mamma. Noi siamo le forze. Naturalmente le canzoni le so tutte a memoria. No, non le canto. D'accordo, non le canto. Cioè, marciam, suffragette a noi. Non puoi arrestarci, o maschio, son finiti i tempi tuoi. È un solo grido unanime, femmine, a noi! Ben presto anche in politica a seguire ci dovrai. Se il voto ancor ci neghi, per te saranno guai! Siamo pronte al peggio anche a morire ormai. Chi per il voto muor, vissute assai, femmine, a noi! Catene noi spezzeremo e tutte unite combatteremo. Noi siamo le forze del lavoro e cantiamo tutte in coro. Marciam, marciam, marciam, suffragetti a noi. Ed ecco Peppino Rinaldi, la voce da cui ho imparato vi tutto. Vi posso dire, assai soddisfatto. Il nostro re. Come un guerriere in sella al suo destriere. Quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re. Si tratta dei bambini, sì, caro. Sì, sì. Mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone. Pipa e pantofole ogni dì mi attendon qui. Io adoro questa precisione. Giorgio, sono spariti. Venone, Venone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a sazietà. Verranno a farsi benedire, poi subito a dormir. Io vivo proprio come un re. La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà. Stai scrivendo tutto? Sì, caro, tutto. Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più. Però in realtà c'è una sovrapposizione dei brani, perché nel disco originale, prima di questa canzone, che praticamente era già successo che i bambini non si trovassero più, i bambini avevano scritto una lettera per avere la data perfetta. Le voci Liliana Sorrentino e Sandro Acerbo sono voci nel doppiaggio straordinarie, hanno fatto una marea di film. Qui erano piccoli e recitavano già molto bene. Cercasi tata per due adorabili bambini. Che sia buona, sia paziente, sempre allegra, divertente. Non dovrà gridar. Questo ce l'ho messo io. Ma so giocar, dovrà badare. cantare per noi. Se vorrà farti amar, le poesie non ci farà studiare, solo compiti leggeri e niente purghe né clisteri. Anche questo ce l'ho messo io. Se te la senti di obbedire, non te ne faremo mai pentire. Nel letto ranocchi non ti mettere, né sale nel tè, né pepe nel caffè. Se l'offerta ti va ben, va presto. Jen e Michael Banks. Oh, questa era la lettera, arriva la tata e naturalmente... In tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene! Ed ogni compito diviene più semplice e sereno. Dovrai capire che il trucco è tutto qui. Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, tutto brillerà di più. Se il pettirosso nido fa un po' di sosta, mai non ha che compito scappar di qua e di là. Ma nonostante il suo da far non cessa mai di cinguettare, lui sa che allora più lieve il suo lavoro. Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, tutto brillerà di più. Naturalmente nel doppiaggio originale la voce di Julie Andrews era fatta da Maria Pia Di Meo, ma nel cantato da Tina Centi. Probabilmente era molto simile, probabilmente era più facile farla cantare questo tipo di canzoni, chissà, però è stata una scelta di cui non ci siamo accorti per un sacco di tempo. Che vola avanti e indietro una pententa al suo lavoro, non si stanca mai né smette di ronzare, poiché ogni tanto posso stare un po' di miele ad assaggiare e ancor trovar che dolce lavoro. La pillola va giù, pillola va giù. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, tutto brillerà di più. A questo punto si va a spasso e si cerca di entrare in dei disegni che ha fatto il nostro... Guarda che splendido disegno. Dick Van Dyke. La primavera è già qui, lassù. La voce è quella di Oreste Lionello. Ehi, vola. Via, Bert. Niente pazzie, per favore. Magico è l'odore dei prati in fiore, tutto azzurro è il cielo. Oh, come bello passeggiar con me. Nel parlato la voce è Maria Pia Di Meo. E ti sarà allegrar. Sei cambiato affatto. Anche quando è un giorno dei più neri, Mary il sole fa spuntare. Oh, andiamo. È tanto bello passeggiarle accanto che non puoi fare a meno di cantare. Se Mary accanto a te ti senti un re, il cuor ti batte in petto e fa bang bang. Sei proprio svitato. Com'è bello passeggiar con Mary, un suo sorriso il sole fa spuntar. Oh, com'è bello passeggiar con te, Belle, raro per davver sei tu. Una razza che scompare la mia. Anche se il tuo aspetto può ingannar, Belle, scorrente del sangue blu. Lo dicono tutti. Sei l'uomo più simpatico del mondo, la buona grazia è tua specialità. Vero. Sei il solo che mi dà serenità e un dolce senso di tranquillità. Com'è bello passeggiar con te, beh, è tanto bello passeggiar con te. E adesso la canzone che conosciamo quasi tutti. Supercalifragilistiche spiralidoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Supercalifragilistiche spiralidoso. Ricordo che a 3 anni per convincermi a parlare mio padre mi tirava il naso ed io giù a lacrimare, finché un bel giorno dissi quel che in mente mi passò. Rimase così male che il meglio ci ritrovò. Oh, supercalifragilistiche spiralidoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Supercalifragilistiche spiralidoso. Gira lungo e largo il mondo e sempre ovunque va, la sua parola magica gli dà notorietà. Coi duchi e i maragià, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitan per il tè. Supercalifragilistiche spiralidoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Supercalifragilistiche spiralidoso. Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragi cali rebus, ma sarebbe un po' esagerato, non senza credi? Senza dubbio. Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare. Udite, udite. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare, ma senza usarla bene o la tua vita può cambiare. Per esempio, sì. L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa. Supercalifragilistiche spiralidoso, supercalifragilistiche spiralidoso, supercalifragilistiche spiralidoso, supercalifragilistiche spiralidoso. Sarei veramente curioso di sapere chi è quella voce che si è inserita. Ma adesso, dopo Giuseppe Rinaldi, Oreste Lionello, Maria Pia Di Meo quando parla e Tina Centi quando canta, andiamo a sentire introduciamo anche un altro doppiatore cantante, Bruno Persa, e il brano che ascoltiamo è quello che si svolge quando il tavolino si alza e si prende il tè sul soffitto. Rido da morire. Che devo far? Rido da morire. Che devo far? Tutto mi fa divertir. Che posso far? Mi viene da sghignazzar. Che posso far? Se il mondo mi fa sbellicar, è imbarazzante. Il mondo mi fa sbellicar. Chi prova a rider col naso fa più o meno così. Orrendo. Chi prova a rider tra i denti potrà solo un serpente imitar. Quasi disgustoso, non mi piace affatto. Chi in fretta va, chi vuol scoppiar. Ah! il uccellino ti fa. Lo sai, tu sei peggio di lui. E poi c'è quello indeciso che fa. Se qualcosa di buffo mi capita, non so squintir e tenerlo per me. Io devo scoppiar in un ho ho ho ho ed un ha ha ha ha ho. Che devo far? Rido da morir. Che devo far? Tutto mi fa divertire. Bruno Persa mi fa pensare a Mago Merlino nella Spada nella Roccia, è possibile? Forse sì. Se il mondo mi fa svendicare. Oh, qui c'è una piccola lezione di doppiaggio, perché Peppino Rinaldi parla. Se in banca mai io ho debolezze, non voglio qua sistema cambiare. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, vizio, scandalo, indisciplina. Se no non ci si salva più. Sono d'accordo con lei. Io voglio che i bambini sappiano già che chi non sa lottare non sopravvivrà. In breve sono seccato di sentire che i miei bambini entrano ed escono dai disegni fatti col gesso sopra il marciapiede, che vanno alle corse dei cavalli e alla caccia alla volpe. Cioè, quest'ultima cosa non mi dispiace, in fondo è uno sport tradizionale. Ma il tè sul soffitto? Lo domando a lei. Trova normale una cosa simile? Ed altre passeggiate molto discutibili di vario genere? Se si portano a spasso, che queste uscite almeno possano diventare di pratica un terreno. Sciocchezze come... Supercalifragilistiche spiralidoso. Sì, brava, lo ha detto. E poi sul soffitto a bere il tè, mai più li porterei. Dovranno invece star qua giù e per di più imparar a vivere come lei. Esatto. Devo prender gusto a cose come un bel libro, con tante cifre tutte in successione. Proprio così. E nel vedere un bel diagramma che va in su, dovranno in cuor gioire sempre più. Precisamente. Ma se dovranno seguir le sue impronte, le mie impronte, la loro vita occorre programmar. Programmar. Domani, come sua intenzione, per lezione i bambini porterò con sé. E allora vi saluto. Vi saluto con una bellissima canzone, sempre cantata da Peppino Rinaldi, sempre tratta da Mary Poppins. Volevo mettere Tutti insieme, ma il tempo è praticamente scaduto. Ve lo faccio sentire un pezzettino di Tutti insieme, no? Tutti insieme! Tutti insieme! Tutti insieme! Forza amici! Tutti insieme! Vi ricordate la scena sui tetti? Bene, io vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio di essere stati con me. Oggi è stata una giornata alquanto stralunata dal punto di vista musicale, però finire con questa canzone mi piace molto. Vi ringrazio, vi saluto e ve la rimetto da capo. Ciao! Con due penny ti puoi comperare carta e spago e puoi fabbricare il tuo paio di ali per poi volare. Spazio padron col tuo bell'aquilon. Oh, oh, oh, che gran gioia andar là sulla terra e il mar, e con l'aquilon poter volare là dove tutto è blu. Su puoi salire tu più su l'aquilone. Se ti lasci un po' trasportare ti parrà con lui di volar. Puoi danzar nella brezza e sentirti lassù nello spazio padrone col tuo bell'aquilone.